Tu lo sai. Sei un esperto. Sei un esperto di come si infilano i jack. Ma abbiamo iniziato? Ma ci siamo in onda? Siamo in onda. Sì, non mi sento. Sì. Forse ho tolto, forse perché voi non avete forse le cuffie. Ha tolto le cuffie, sì. Peppe. Buonasera. Ciao. Peppe, già staccate. Chi c'ho di a sta radio? Why you? Non se, no, Peppone, non si sente. Non si sente. Va bene, facciamo la radio. Senza, canale, facciamo la radio senza cuffie. Si sente bene. Si sente bene? Qui adesso si sente, grazie, si sente. Abbiamo qualche problema con i canali, ma li avranno anche a Venezia, probabilmente. La stessa cosa che volevo dire io. Il canale! Il canale! Buonasera ai nostri amici Radio Ciotti Ascoltatori. C'è una voce maschile, Wayu. Che è? Mi sono fatto l'operazione. Chi si è fatto l'operazione? La signora Micuzza! Bentornata la signora Micuzza. Vecchi arrivi. Nuovi ritorni. Che dice? Tutto a posto, signora Micuzza. Insomma. Che si dice? Che si dice in quella del The Dare? Che volete? A The Dare sembra la solita storia, Però mi sono andato a fare la vacanza di partire voce. Migno scialata. Poi vi conto. Ottimo. Beh, benvenuti a tutti. Un ringraziamento. Questa è la prima trasmissione di Ciotti ad Allettere che si fa con nuovi strumenti della Fuori Onda Radio. Ah, sì, è vero. Il microfono a testa, un bel mixer, belle cose. Addirittura. E ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla festa di Fuori Onda Radio di maggio dell'anno scorso. Che grazie anche al loro contributo hanno potuto far sì che tutto questo avvenisse. Sì. Grazie. Grazie amici. Adesso non ci dobbiamo tirare il microfono. Sì, che bello. Ognuno ce l'ha settato con la sua voce. Capi, è una cosa incredibile. Ma ci sono pure i cosi qui. Come si chiamano queste cose che sto indicando, amici? Le aste del microfono. Andiamo proprio in una chiesa. Poverina, però la signora Pina. C'ha un dal libro microfonino. Dell'esodo. C'è un microfonino un pochino. Mo glielo compriamo uno migliore. Perché sì. Io signor senza mazza, insomma. Signora Pippo, tu hai fatto l'operazione. E tigni un attimo un abbassamento di voce, signora Pippo. Signora P. È suo freddo che è arrivato all'improvviso, mi ha scioccato proprio i corde vocali. Signora Pina. Aspetta, mi mento un po' chi vecchi, sì, vediamo un pochino se mi migliora la situazione. E chi te? Ah, Erovix, com'è miracoloso. Gesù. Non anticipiamo. Da sta scaletta che mi famo? Arrampichiamoci. Possiamo scendere o salire? Se non ce l'abbiamo ci arrampichiamo. Sì, io mi ci entro. Faccio una domanda. Se la scaletta è su una nave, come si chiama? La biscaggina! La biscaggina! Salga sulla biscaggina! No. Salga a bordo, cazzo! Comunque, notizia che la Rai ha scritto un toschettino per fare una fiction dove lui interpreterà De Falco. Ah, e De Falco che fa? De Falco è quello che diceva salga a bordo, cazzo. Sì, no, De Falco gli fanno fare schettino. No, De Falco è stato mandato alla guardia costiera di Aosta. Era puttana. Sì, l'hanno punito. Era puttana. Ha bestemmiato in diretta. Orcamato. Ad Aosta non c'è il male. Voglio io geografia. Geograficamente parlando sono un ignorante, vero Scicchità? Abbiamo in realtà una presenza che è assenza in questo luogo, sì. Ma ci sono comunque due presenze molto simili che si assomigliano. Giunge nella nostra puntata in punta di piedi, Massimo. Un passante, Massimo Scicchitano, nome passante. E cognome. Vuoi dirci le tue generalità complete o codice fiscale? Io non mi seguo, io basta con questi momenti di... Bah. Era meglio quando avevamo dei microfoni. Adesso c'è un bordello, non da poco. Sovrimpressione. Beh, ragazzi, ma questi lunghissimi saluti che abbiamo fatto. Troppo lunghi. Ciao, Massimo. Ciao. Adesso salutiamo in modo lungo, Massimo. Ciao. Guarda il tuo Marco. Voglio, andiamo avanti con questa nuova spumeggiante puntata di Ciotia dall'Etere. Visto che parlavamo di forze dell'ordine, vogliamo parliamo di forze dell'ordine. Parlavamo di De Falco, di guardia costiera. Ma guardi. Ma ieri è stata la giornata. Ieri 4 novembre, la giornata loro, degli amici delle. Ma questo poi l'affronteremo dopo. No, adesso. Affronteremo adesso. Io non ho la scaletta sotto mano, sotto piede. Allora te lo dico io, che nel primo piolo della scaletta si trova proprio questo argomento. E, insomma, vogliamo fare tanti auguri ai nostri amici delle forze armate, giusto? Eh sì, perché sono forzuti. E sono armati soprattutto. Perché sono armati. No. Perché ieri è stata la loro festa. Non avrò proprio un compleanno, diciamo è stata la loro festa, giusto così. E che fanno quando si armano? Si rafforzano. Perché lo dice la parola stessa. Cosa? Ah, ci dicono dalla giuria che partono. Partono, sì. Si armano e partono. Aspetta, c'è stato un rumore fuori. Questo è una mancanza di rispetto per l'istituzione delle forze armate da parte della signora Micuccia. Che... Avete fatto uno scorreggio? No, peggio. Che ho fatto? Non ho fatto niente. Sono stata io. Andrea, siete un pirito da me. Un maiale. Ruttino, ma cosa vuoi che sia? Abbiamo mangiato come porcelli. Sì, ci siamo scofanate in 3 minuti 2 pacchetti di chipster, uno di Fonsi, uno di bruschette e svegliate Milka di diversi tipi. Comunque io volevo dire che il Milka tender è adorabile. Salutiamo Spike. Dai, parlando di cose serie, no? Vogliamo surreali. Fare surreali e serie. Ieri era il compleanno, cioè comunque il compleanno era la festa degli amici delle forze armate. Che hanno fatto? Caricate! Hanno caricato! No, perché no, ieri in occasione del loro compleanno Diego Bianchi li ha sputtanati. Ah, ma in che modo? Ma no, se vogliamo proprio... Cosa? Signora Miku, però mo vorrei dire un po' di ritegno e contegno. Siamo comunque su un mezzo pubblico di interesse, di comunicazione, interesse pubblico, e i media vanno rispettati in quanto media. Detto questo, caparo con non sa che è una tollara. Purtroppo sì, signora Pipi, devo dare ragione stasera. Signora ma una volta la signora Micuzza era l'altolocata della situazione. Sì, comunque veniva dal nord. Pensate a poco voi come eravate mesi. Capisci. Fortuna che c'è la signora Pina con la sua vecchia, e sottolineo vecchia, sapienza antica. Io sottolineo fatti i cazzi tuoi, per piacere. Che cambi gendani. Quest'anno la signora Pina è veramente incazzosa. La signora Pina ha un diavolo per capello. Un buon dia all'internet. In ogni caso, ora, cercando di guaiare questo discorso interessante, sì, no? Che... le forze dell'ordine, partendo armate, partendo da questo presupposto, voi sapete che cos'è stato 2 settimane fa, quasi ormai, sì, c'è stato il famoso scontro a Roma tra forze armate e operai dell'AST di Terni. Perfetto. Si è detto, o meglio, il nostro vice consiglio Alfano ha detto in via ufficiale che cosa? Perché stiamo all'Inghilterra. Ha detto in via Alfano disse, quando insomma ci siamo chiesti ma come mai sono stati caricati questi poveri cristi, come, perché è successo? Come se l'è scusata, vediamo. Perché? Alfano ha detto giustamente, perché è una persona giusta, ha detto in Parlamento che è successo perché quelli là volevano andare ad occupare la stazione Termini, non si può. E poi i treni non partono in orario. Sì, e pare che gliel'abbiano confermato le forze dell'ordine presenti al corteo, dicendo che si era vociferato che si volesse raggiungere la stagione termini. Per occuparla, e quindi questo insomma rappresentava una minaccia, diciamo, all'ordine pubblico in qualche modo, e giustificava in qualche modo un utilizzo della forza, di queste forze armate che in quanto che sono formidabili. In realtà che capitò? È successo che domenica scorsa è andata in onda su Rai 3 Gazebo, un'altra puntata di Gazebo con il nostro amico Diego Bianchi, a cui twittiamo un sacco di cose ma che ancora non ci caga, ma ci cagherà. Hashtag Diego cagaci. Bravissima, hashtag Diego cagaci, ce lo segniamo. Sì. Insomma, il punto qual è? Che Diego Bianchi era presente alla manifestazione. Sì, perché sta seguendo appunto gli operai della Street Annie da un sacco di tempo, li ha accompagnati alla manifestazione della CGIL, li ha accompagnati alla Leopolda, che peggio si innoveva in minestra. Vi ricordiamo sempre di la Sarvela. Ne abbiamo parlato la scorsa puntata. Sì. Esatto. Ad oggi. E che è successo? Che trovandosi lì, Diego Bianchi ha potuto riprendere come la situazione posta da Alfano fosse totalmente diversa. In primis perché il corteo si è diretto da tutt'altra parte. Ed è evidente nel video proposto da Diego Bianchi, che potete benissimo vedere online tutti voi amici cari, più o meno ai 25 minuti della trasmissione. Si vede che i manifestanti sono andati da tutt'altra parte, anzi erano diretti al Ministero per lo sviluppo economico. E come, oltre questo, quindi già smentita la prima parte, arrivati a un certo punto della strada diretti al Ministero, di punto in bianco, così, proprio così, tanto per, cioè i manifestanti erano lì con il loro bello striscione, facevano giustamente casino, come giusto che sia, casino in senso acustico, se così vogliamo. Chiasso. Stavano manifestando. Rumorosità. Ministero. Sì. Abbiamo una registrazione live. Ministero. Insomma, e che è successo? Nel video di Diego Bianchi si vede e si sente forte e chiaro questo funzionario di polizia in borghese col suo bel giubbottino di pelle marrone, molto figo tra l'altro, chissà dove si veste. Stylish. Rainbow style. Comunque, che dice chiaramente: caricate, di punto in bianco, sì, dal niente. Caricate. Lanciamo appunto l'hashtag caricate, lanciato anche dal nostro amico Diego Cagaci. Lanciamo anche l'hashtag avvisate magari pure prima quando caricate, se proprio volete. Esatto. Ditecelo prima. Ci prepariamo. Ah, ma batterie ricaricabili? Ma che hanno caricato un video su YouTube? Eh? Hanno caricato un video su YouTube, magari. Insomma, stiamo... non lo so. Io vorrei lanciare invece un hashtag ad Alfano. Alfano, controlla le tue fonti. Oppure Alfano ha fatto una figura di merda. Alfano Beh, non è che ha fatto Alfano, porco una Dio. Figura di merda. Alfano hai fatto svariate figure di merda. Una delle tante figure di merda. Alfano. L'ennesima. Ripigliati, Alfa. Eia. Ma leggevo appunto. Ah, lanciamo l'hashtag Alfa Eia. Eia. Hashtag Alfa Eia. Eia, ripigliati. Se purtroppo la linea è lenta, per lanciare un hashtag qua ci sta volendo purtroppo parecchio tempo. Ebbene signori, questo è successo. Quindi ecco è andato. Io vorrei fare i complimenti agli amici di Gazebo. Un coraggio, perché sì. Li chiudono sicuro, no? No, più che per il coraggio. Al massimo li caricano. Li caricano, non li caricano. Non è giusto. Diciamo che Diego Bianchi ritornerà a caricare video su YouTube. Benissimo. Da dove è partito? Salutiamo però, Diego Bianchi, che prima o poi saluterà. Che prima o poi ci calcolerà. Sì, speriamo. Ci siamo. Siamo qui. Noi ti seguiamo sempre, Diego. Diego. Diego, ti vogliamo bene. Bene. Mo basta, però. Mo basta veramente. L'odio dell'etere diventa. Le chiamo il culo a Diego Bianchi. No. Vabbè, allora vogliamo. Diego, prendici con te. No. Vogliamo. Quindi, come dire, presentare il prossimo pezzo e rendere la giusta. Il giusto valore di questo pezzo. Eh sì. Dedicata ad Alfano, la canzone della cacca. Sì. La canzone della cacca, sì. Dedicata ad Alfano. Sì, io sono d'accordo. Perché se loro buttano manganellate alla gente così, noi gli tiriamo della cacca. Vabbè, anche perché quando dici che devi andare a fare la cacca è perché sei carica. Sì. È giusto. E noi scarichiamo tutto quello che è, insomma, scaricatori abbiamo dentro. Scarichiamo quello che abbiamo dentro. Caricate! Sì. Scaricate! Caricateci! Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia, forse un ippopotamo, o forse il re di Francia, o un gran bastimento che dall'argine si stacca. Forse è la mia cacca. forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. C'è qualcosa dentro che vorrebbe uscire fuori. Forse prigionieri o forse sono fiori. Forse son galline chiuse strette in una sacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Sento un movimento che si vuole liberare. Forse sono onde che s'azzuffano nel mare. Forse è un esercito glorioso quando attacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Sento un gran tumulto che tra poco scoppierà. Tremano i tombini sotto tutta la città. Forse un terremoto che sconvolge, scassa e spacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Bravi! Bravissimi. Io davvero devo fare la cacca. A proposito di cacca, vogliamo segnalare. Vogliamo segnalare un sito veramente di merda. Di merda. Che si chiama shitexpress.com, dove possiamo ordinare un pacco di merda da mandare a chi vogliamo. Esatto. E pagare comodamente in Bitcoin, vero? Esatto. E scegliere anche il tipo di merda, quindi potete approfittare, sì, di questo sito. Ricordiamo il sito, Marco: shitexpress.com. Sì, infatti, Marco, presenta la cosa, dai. Sì, presentacela. Silenzio. Vai, Marco, vai. E praticamente in questo messaggio promozionale vi parlerò di shitexpress.com. Il nuovo ritrovato tecnologico per mandare merda in una scatola attorno al mondo. Perché col www tu lo sai che sta per World Web. Quindi world merda ovunque. We are the world. Quindi uno va su sto sito, compila il Forms Ani, Formsani, dove mette l'indirizzo del destinatario, sceglie il animale di cui usufruire la merda e poi può pagare comodamente in Bitcoin, perché anche comunque l'anonimato è importante. Che corrisponde più o meno? E tieni conto che per mandare una scatolina, che tu puoi scegliere poi la scatolina tipo a forma di cuore, con bacino, con 12,95 euro, che equivalgono a 0,05 Bitcoin, tu puoi mandare una scatolina di merda ai tuoi amichetti in giro per il World Wide Web. Grande, Marco. Questa sì è un'iniziativa. Ho capito che bella iniziativa che hanno avuto su Toki. Si vuole, tipo, ti immagini Alfano domani mattina gli viene recapitato un pacco ed è un pacco di merda. Alfano basta che si guarda allo specchio. È un regalo di merda. Alfano basta che si guarda allo specchio. Tamarri. Possiamo anche lanciare quest'hashtag bellissimo. Manda anche tu il tuo pacco di merda da Alfano. Ok, lo lanciamo subito su Twitter. Ricordatevi, amici, di seguirci su Twitter e di seguire i nostri hashtag soprattutto. Assolutamente. Ce ne sono già altri proprio che... Qui a Berlino Est è arrivato un nuovo hashtag del vostro papa. Che dice? Più bambini, meno bambini, più bambini. Detto da Ratzinger, meno bambini, più bambini. Ma poi dobbiamo ricordare una cosa. Noi non gli abbiamo fregato l'idea degli hashtag a Diego Bianchi. Noi non gli abbiamo fregato l'idea dell'hashtag Diego Bianchi. Allora no, l'hashtag fa parte della nostra cultura e della nostra vita, di facenti parte di questa civiltà, ahimè, odierna, moderna e contemporanea. E quindi, in quanto bene dell'umanità, l'hashtag è tanto mio quanto di è Diego bene Bianchi. Comune. È bene comune. Diciamo che però noi ne stiamo anche abusando un pochino. Infatti io giustamente dicevo che per prevenire le nostre azioni, la nostra violenza nei confronti dell'hashtag, creerei appunto a prescindere l'ente per la protezione dell'hashtag. Okay. Io allora, lancio l'hashtag invece, ente bravo, di protezione dell'hashtag. Ui, cavo, io ne esperta, io che voglio fare? Non era mai un segno pratico questa cazzo di tastiera. Un segno pratico? No, segno mascolo. Allora tu non sa magari, no? Ma fa la finta tonta tu, Ti è piaciuto? Oh cazzo, Marco. Oh mio Dio. Bene, il prossimo cosa? Adesso parliamo di una cosa importantissima. Degli aerei rossi sui cieli della NATO. Io qua da Berlino c'ho notizie fresche giusto di 20 anni fa. Perché come alla Formula 1, no, le notizie arrivano dopo. Questo è Cose Radio. Praticamente gli aerei russi che stanno sorvolando i cieli NATO, non è colpa che Putin vuole far volare aerei sul NATO, perché ha paura e che purtroppo abbiamo delocalizzato la produzione e i timoni sono costruiti in Siberia e si sa che là fa freddo e si indippano e quindi non riusciamo a girare. Non ci uccidete i nostri figli. Eh? Grande signora Miku, in realtà non la stavo se vi volessimo bombardare prenderemo un nostro sottomarino nucleare e lo faremmo esplodere nel vostro mare Mediterraneo. Siamo bravi a fare questo. Guarda Ottobre Rosso, guarda tutto quel che abbiamo distrutto. La signora Micuzza è guerra fondaia. A parte essere guerra fondaia, è un non so che di inglese, un certo accento british una stasera. Non era così. Sono stata a Londra in questa quest'estate, no? Sono stata a Londra e sono andata a vedere il Tamigi, il ponte che si alza e si fascia. Molto bello, il Big Bang. Bello. No, Big Bang. È un famoso romanzo di quello che parla sulla sedia a rotelle. Come si chiama? Stephen Hawking. È un bel romanzo, l'ho visto, molto bello nella libreria. Da me non è arrivato ancora perché non l'hanno tradotto. Penso che arriverà nei prossimi 50 anni. Noi siamo un po' indietro, ma ci arriviamo. Vagiano che arrivi. A proposito di anni, ragazzi, va con lo zoppo, va piano piano. Ricordatevi sempre. Hai rovinato il lancio di Marina. Guarda. Ricordati che chi va con lo zoppo va piano piano. Questo è vero. Hai rovinato il lancio di Marina. Comunque, io veramente sono. Che lancio? A proposito di anni. A proposito di anni. Ah, anni. Ho capito di anni. Di anni. Stiamo facendo livelli bassissimi. A proposito di anni, Marina, stiamo dicendo? Vogliamo insomma informare i webociota ascoltatori, tutti, che quando è stato il 4 ieri è stato il oltre alla festa degli amici delle forze armate. Gli amici di Maria Pagano. Ma Maria non ci viene più a trovare. Forse dopo passa. Comunque, tornando a noi, Marina. Stavo dicendo, ieri è stato il sesto compleanno dell'aula più occupata dalla quale noi trasmettiamo. L'aula più occupata, sì. Ponte Pietro Bucci, cubo 41C. Allora adesso c'è una diatriba. Se siamo proprio per la conformazione 40. Logistica. Ci dicono dalla regia che il cubo è 40. Dici che 40 potrebbe essere ambiguo, capito? Potremmo essere confusi, quindi stiamo cercando di prendere... Con l'aula 40, se fossimo all'Inghilterra sarebbe tutto con la 40B, perché solo una lettera ci contraddistingue dalla K alla C. Non si capisce queste lettere. Stiamo cercando di cambiare, mo vediamo. Anche perché si poteva mettere pure Q, diciamo, no, vero? Sempre quel suono. Sì, si può mettere anche il Q, anche sì, Q. Sì, sì, sì. Vero. Insomma, oggi è ieri era sesto compleanno dell'aula P2 occupata dall'occupazione dell'aula. Sì, dell'aula. Domani va a scuola. Domani va a scuola. Comincia la scuola. Bello. Sì, in tal senso. Però il topolino dei denti non me l'ha portato i soldi. Oh, ma poveri l'aula. E in tal senso. Sì. In tal senso. Ci pozza, polizzati. Noi stiamo mangiando, scusate. Mentre ci stiamo in tal senso, Flavia, cosa stiamo organizzando? Un mucchio di cose. Un mucchio. È un'unità di misura. Ci dice Shari. Shari, giustamente confusa dal tuo ingresso di prima, ci scrive: a proposito di Ani, la P2 fa gli Ani. Ora, allora, ce ne sono tanti di Ani qua dentro. Ma guardate, ci sono anche un sacco di facce di Ano. Non c'è faccia di Ano. Una è appena entrata. Scusa, no, aspetta, qualcuno. Voglio sono anche degli Ani che hanno la faccia. Condividi, prego. Quello che è appena. No, ti prego. Mo lo dici. Adesso, guarda, se non lo dici sei proprio un qualcuno qua. Se non lo dici sei un alfano. Sei un dai. Peppone se non lo dici. Che discorsi del culo che state facendo. Un applauso ma alla come... Ma come siamo British di Milano. Che discorsi del culo, ne. Hai un giubbottino simile a quello che aveva il poliziotto che ha detto caricate. Scusa, vieni a dire caricate al microfono. Vediamo se sei tu, scusa. Caricate! Non è lui, Wayu, no. Il triple è una voce inconfondibile. Sì, stiamo cercando di identificare la voce, ma non funziona. Un nuovo hashtag. Scaricate meno più scaricate e meno caricate. Più scariche e meno cariche. Più scariche e meno cariche, questo volevo dire. Questa è caricate il vostro intestino, insomma, piuttosto. Anche perché è scientificamente provato che chi scarica di più, insomma, chi si libera di più mangia di più. Comunque lui scarica tantissimo. Esatto. Più scarica più mangia. Più felice, però capito. Anche se Becky non mi sembra così felice in generale. Vabbè, non divaghiamo. Comunque, visto che siamo tornati un attimino al discorso delle cariche, io volevo leggere un paio di passaggi di Spinoza che sembrano abbastanza illuminanti rispetto prego, a prego, illuminaci. Che... Niente, da Spinoza ci scrivono, in realtà questo è il diciamo sono il minuto per minuto quello che è successo il giorno delle cariche. E niente, scrivono: alcuni operai ThyssenKrupp sono stati presi a manganellate, che è niente rispetto a quel che rischiano lavorando. E ancora, i sindacalisti caricati senza preavviso, almeno un tweet sarebbe gradito. Un hashtag magari. Sì. E anche alcuni operai sono riusciti a entrare nell'ambasciata tedesca per chiedere asilo politico. E Landini: anch'io sono stato preso a botte dai poliziotti, era l'unico modo per passare per lavoratore. La linea torna al discorso che stavamo facendo sull'aula P2 occupata. Dicevamo che sempre quel caspita di discorso degli anni della P2. Allora, l'aula P2 occupata, che come ben voi sapete che ci ascoltate, se non lo sapete perché ci state ascoltando per la prima volta, perché per qualche strano motivo avete sbagliato la URL che stavate scrivendo, certo, per andare online. L'aula P2 occupata online è uno spazio occupato che è stato occupato nel 2008 da alcuni guaglioni qua presenti, tra che cui hanno occupato. Che hanno occupato occupatamente. Sì. Ed è un'aula oggi libera, usata dagli studenti per i più svariati motivi. È libera e occupata? È occupata, ma è libera. C'è nessuno? È stata liberata dalle grinfie dell'istituzione universitaria dell'Università della Calabria. È stata liberata con un'occupazione. Con un'occupazione. Guarda che non è una contraddizione. Tu lo so, sei un ingegnere, quindi poverino. No, lei è architetto. Come scusi? Architetto. E c'ho le tette, non lo dico, sono architette. Architetta. C'ho le tette ad arco. Architette. Che storia. Comunque, dicendo ciò, l'aula P2 è stata occupata, quindi liberata. E oggi ospita le più svariate realtà da noi, che siamo la radio libera. Noi che siamo la trasmissione di una radio libera. Che è fuori onda radio. Fuori onda radio. Ha gli informatici pazzi del sottoflow. Piuttosto che il gruppo d'acquisto solidale, piuttosto che chiunque viene qua tutti i giorni a studiare, minchioneggiare, fare quello in senso creativo, in senso sempre Ho avuto un brivido per la serietà che si è raggiunta con questo discorso. Esatto. Possiamo tornare ciote. Allora, sì, per favore. Ciò, quindi che volevamo dire con tutto ciò? Con tutto ciò volevamo come si festeggia dire il compleanno? Questa aula bellissima ieri ha festeggiato 6 anni di liberazione. E questo l'abbiamo detto. Per festeggiare questo evento bellissimo è l'entrata, diciamo, nell'età sociale dell'aula, nel senso che poi andrà a scuola, giusto? Sì, la mandiamo a scuola. Io in realtà non abbiamo ancora deciso se mandarla a scuola, cioè, dargli un'istruzione nostra, cioè, perché comunque noi non siamo dei genitori convenzionali, potremmo anche decidere di tenerceli a casa e istruirla, insomma. Ma in realtà è già all'università l'aula, quindi è inutile che ci facciamo pippe. Mio sì. Dio, è un genio. Vabbè, infatti sì. È già all'università da sempre. Già 6 anni proprio. L'abbiamo mandata all'università a scuola. No, signora Miku. No? O sai come funziona la scuola? Funziona così. I primi 5 anni che sei all'elementare ti fanno fare disegni, ti fanno fare azione, sopraazione, divisione, moltiplicazione, ti impari queste cose per non dare ricordi perché di picciretto. Arrivi alle scuole medie, che cominciano a crescere i minne, e allora dici, chi sono queste cose? I guaglioni ti guardano, cose, insomma cominci a fare pompini nei bagni. Arriva di giallo, i superiori comincia a rimanere incinta, cioè 4 volte, infatti abbiamo dovuto fare le classi per i bambini, delle bambine. Questa è la situazione. E praticamente arrivi all'università che ormai ti hanno scofurnato dappertutto e dici, ma che cazzo faccio? E quindi, che cazzo faccio? Poi mi sembra abbastanza appropriato. Avete visto che bella biografia Catena Saputana? Signora P, non vi mettete pure voi, signora P. Scurrili. Se volete diventare suore, non andate a scuola. Non andate a scuola, signora. Perché come dice il nostro grande papa. Ecco. Meno bambini, più bambini. Esatto, okay. Esatto. Signora Miku, grazie all'intervento della signora Mikuzza in questo dibattito sull'istruzione pubblica. C'è un'altra novità. Non peccate. Mai. Se volete fare un menaggio a tua, chi fa da sé fa per tre. Esatto, un applauso alla signora Mikuzza, grazie dell'intervento anche sulle questioni sessuali represse, attuali. Signora Pina, lei cosa ne pensa? Avevo proprio con interesse la pronuncia acciua che ha riuscito a fare. Ma perché menaggio? Vabbè, menaggio. Menaggio. Però acciua, c'è capito, mi supera. Cosa intendi? Ma perché voi invece, francese, signora Pina, ma poi voglio dire una cosa, no? Ancora. A tutte voi figlie di padri che sono gelosi, sì? Con il fucile in casa, sì? Attenzione che se vostro padre vi compra il materasso in memory e poi ci chiavate sopra, poi se, lo vede, capisci pure che è il maschio, lo va a sparare. Che se è un problema, mi raccomando, attenti voi ragazze di giovani, sì, di facili costumi. Lei signora che cerca di parlare, tanto non ti faccio parlare. È inutile che fa la persona seria. Signora amico, io sono una persona seria. Io sono una persona seria. Ti infastidisci, lo sai chi mi sembra? La Santa Anghè. No, sì, mi sembra la Santa Anghè che si fa. No. Allora io sai cosa le dico? Che lei mi sembra la Madia quando si mangia un cono gelato. E l'abbiamo inserito questo discorso. Ecco, e parliamone. Come e buono parlare. Gelato che il mio artista gli è venuto un cazzo tanto mentre me lo mangiava. Ecco, esattamente quello che volevamo evitare. Sì. Alla signora Madia, non alla signora Pina, no, alla signora Mikuzza è successa una cosa. O no? Sì, perché pare che Schopenhauer. Schopenhauer, insomma, mi dica Schopenhauer. Io stavo parlando di Schopenhauer. Niente, Schopenhauer è il pendolo infinito tra la noia e la Madia, forse. Ho studiato. Parliamo piuttosto dei gelati della Madia. E niente, pare che su chi siano apparse delle foto in cui la Madia. Apparizioni in cui la Madia veniva ripresa a mangiare un cono gelato. Povera Crista, giustamente, no? E poi con una dicembre veramente una cacca, era il cioccolato, una significativa didascalia, un titolone anzi, cioè, nel senso, chi ha titolato cosa diceva questo titolo? Come, chi te l'ho già spiegato chi è stato? Sì, chi è stato? questo è un altro hashtag che dovremmo lanciare, ma diventeremo troppo seri. Chi, il giornale chi? Il giornale chi che ha scritto? Che ha scritto? Te lo stavi dicendo tu? Che ha scritto? Ci sa fare col gelato. Lanciamo l'hashtag. Ci sa fare col gelato. E al cioccolato. Chi sa fare col gelato? Chi sa fare col gelato? Chi è questa che sa fare col gelato? Insomma, effettivamente ha uno strano modo di mangiare il gelato. Però, insomma, noi non la giudichiamo per questo. Cioè, no, nel senso, assolutamente. Diciamo che lo mangia con molta enfasi. Ah, ma ecco un operaio della Thyssen. Lei vuole intervenire alla nostra... Scusi, stavamo facendo giusto un dibattito sulla questione degli scontri. Scusi, operaio. Operaio, ma lei è stato caricato? Operaio. Vena. Ma lei con la matita è un ingegnere. Io sono stato scaricato. Uno scaricatore di porno. Da bag è stato scaricato. L'internet. Non lo so, però da bag sono stato scaricato. Ma com'è successo? Purtroppo è successo per colpa di un ortaggio. Quale ortaggio? Non lo posso dire. Ci vuole... No. Noi non carichiamo. Può dirlo liberamente. No, non voglio rimuovere questi ricordi dalla mia... Mi piace la zucchina, zucchina, mi sento birichina. Non lo voglio dire, no! Ma scusa, ti ha traumatizzato questa cosa, quindi vuol dire che non ti ha solo scaricato semplicemente, ti ha... Sono stato scaricato per ben due volte. Raga. Sono un doppione ora, sul suo hard disk. Da quanti giga, mi scusi? Da 40 giga, penso, in formato Blu-ray, sì. Blue gay forse. Non lo so. Ma dove stava andando mentre è successo l'accaduto? Io stavo andando a supervisionare un lavoro con la matita. Ma verso Termini o verso il ministero? Termini Merese. Sì, in Sicilia. E poi? E poi stavo supervisionando questo lavoro e purtroppo sono stato scaricato. Ma io volevo essere caricato dalla polizia, come fanno sempre loro, gli operai li picchiano, e invece sono stato solamente scaricato. Ti hanno lasciato per strada. Sì, mi hanno lasciato per strada sull'autostrada, ho dovuto cercare passaggi. A passaggi? Sì, non ho potuto usare nemmeno BlaBlaCar. No. Come no? Non avevo uno smartphone con l'hanno la connessione data. L'hanno zittito per questo, è stato zittito. Niente. Ma a proposito di BlaBlaCars, vi volevo dire che l'altra volta la signora fanno viaggio, noi ho preso BlaBlaCars. In Italia avete trovato la cosa più intelligente del mondo. Cioè? Siccome sulla macchina la polizia sono due, no? Uh-huh. E allora uno deve viaggiare gratis. Allora che ho fatto? Ho detto, mo faccio BlaBlaCar. E mi è arrivata la macchina della polizia, perché avevo scritto su BlaBlaCar che non avevo soldi, pagavo Pombini. E invece quindi venuto la polizia, mi ha preso, mi ha arrestato. Scusa. Però... non ho fatto manco un bambino e sono arrivato a destinazione grazie alla polizia, grazie BlaBlaCar della polizia, lo Stato ci guadagna. Grazie, ringraziamo gli amici delle forze disarmate e disarmanti soprattutto. E detto questo, chiaramente non stiamo a dilungarci, ma un cenno lo volevo fare insomma alla famiglia Cucchi per tutto quello che c'è stato. Solidarietà, hashtag. E poi di ciò vogliamo mandare un pezzo. Sì, io questo voleva essere un momento veloce. Mandiamo un pezzo, ovvero che pezzo c'è adesso? C'è una cosa bellissima. Gesù. Una cosa che piace alla signora Micuzzi. Gesù alla terza, però Gesù. E Christian Airte, guai a te. Era un cartone animato degli anni 80, no? Però se uno cambia il nome anziché Titan, Gesù, che è vero, Gesù è vero, Gesù è vero, invece Titan era un cartone animato ed era un personaggio che era un robot. Mi viene in mente Gesù. Spazio! Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Insomma, prima di Gesù stavamo parlando di una questione prima seria, che io vi ho zittite. Cioè zittite sì, in modo proprio tamarro. Becero. Becero e tamarro. Solo Maria Pagano come... sarebbe capace di tanto. Un po' come Alfano. Come Alfano? Perché Alfano? Perché becero. Che perché becero. Ah beh, perché non è beh. Maria Pagano sta cercando cassette della frutta da spaccare. Maria Pagano? Si è fatta i dread? Sì. Sarà contraria a tutto questo? Non ne capito niente. Ah, sicuramente ti piaceva. Scusa, qualcuno con i dread voleva... Tu conosci qualche papa pedofilo? Qualcosa? Scusa. Tu conosci qualche papa pedofilo che è a favore dei papa pedofili? Che c'entra? Maria Pagano era contro dalle cassette, invece è a favore. Ah. Hai capito? È un giochetto psicologico. Tu hai mai trovato un politico metodo inverso a favore del finanziamento a favore del non prendiamo a pugni cose. Avete mai trovato un politico a favore della corruzione? No, a favore? No, a favore no, dichiaratamente non c'è. No, però lo vuole, capito? Ah, in questo senso è come quelle allora ve lo spiego per i ragazzi che così forse scopano prima. Le ragazze che non lo vogliono in realtà lo vogliono, sono quelle che lo vogliono che non lo vogliono. Perché? Cioè, lo vogliono ma non lo vogliono. Capì? È un gioco tutto psicologico. Tutto psicologico, questo è un bel problema. Capito? Le ci dicono le care puttanzuore. Ecco. Mentre invece le suore puttane non le vuole nessuno. Ecco, appunto, buono. E tornando a un discorso di carattere purtroppo serio, avete visto la sentenza Cucchi? Sì, l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita, l'abbiamo anche... Annusata, l'abbiamo anche. Aveva l'odore di merda. Proprio no, per tornare di merda. La merda è meglio. La merda era meglio. E insomma, beh, nessuno l'ha ammazzato sto qua. No, cioè no. Che non c'era l'evidenza di questa situazione. Sì, adesso che a poco sappiamo che è successo, non sappiamo chi no, cioè. Ma quanti ce la dobbiamo prendere? Qua dice che nessun colpevole. Tradizionalmente nel rispetto delle tradizioni, caso Cucchi, nessun colpevole. È giusto. E tra l'altro, visto che tutti gli imputati sono stati assolti, io vorrei dire che è una minchiata sta cosa che dicono che lo Stato non ti protegge. Assolutamente. Insomma, l'unica cosa che ci chiedevamo è che siccome dice che il verdetto di primo grado è stato ribaltato, chissà lui nella tomba. Sì, vabbè, stiamo facendo mega citazioni. Esatto, stiamo citando direttamente da spinoza.it che ha delle perle di saggezza davvero. Sì, esatto, la sentenza di primo grado è stata stravolta a tal punto che Stefano Cucchi ora è indagato per diffamazione. Sì, oppure per la morte di Stefano Cucchi nessuno andrà in carcere. Perché, Andrea? Perché sembra sia pericoloso il carcere. Appunto. È meglio non bannarceli. Comunque diciamo la cosa più comica della cornice è proprio la realtà. Difatti le forze anzi il sindacato della polizia penitenziaria ha querelato la sorella di Stefano Cucchi per diffamazione. Come se non bastasse. Infatti. Perché effettivamente se il reato non sussiste non è stato nessuno. E quindi no, ancora peggio. Vuol dire perché... che è lei che ha dichiarato il falso. Esatto. Addirittura. No, ancora peggio perché è stata querelata. Perché dice che con le sue parole genera una situazione di odio nei confronti della categoria della polizia. Mo, parliamoci chiaro, no, perché aver ammazzato di botte non uno, non due, parecchia gente, ma uno non è che può generalizzare. Amici della categoria, mo voglio dire, diciamo che a generare odio nella vostra... No, non è proprio la signora Ilaria Cucchi, signorina. No, direi di no. Io, no, ma sono le minchiate. Sono che... le vostre azioni? Ma non lo so. Io direi che un attimo, per dire una cosa seria: se tornaste quel po' umani per farvi abbastanza schifo da prendervi le vostre responsabilità, a noi tutti farebbe molto piacere e vi festeggeremo con tanto più gioia il prossimo 4 novembre. Grazie. Insomma, non siamo le uniche a dichiarare. No. Dichiararci solidali nei confronti della famiglia Cucchi, ma anche Fedez si è schierato con esatto. Fedez. Non lo sai a Fedez. Fedez a piangere di recente. Ha pianto molto Fedez. Dice che Fedez si è schierato con la famiglia Cucchi e quindi c'è un'implicazione. Chi si schiera con la Se Fedez sta con la famiglia Cucchi, con la Cassazione c'ha lista Gasparri, voglio. Certo, altrimenti. c'è di sta Gasparri. E a questo proposito, Gasparri! Esatto, noi volevamo lanciare una campagna. Ma che fine ha fatto Gasparri? Allora, noi sapremo che fine ha fatto Gasparri non appena gli twitteremo un'offesa di un certo vai, livello. Vai, twitta ora. Allora, twittiamo. Allora, ragazzi, siamo nella rubrica tweet. Ma noi non dobbiamo offendere Gasparri, è Gasparri che deve offendere esatto, noi. Esatto, esatto. Noi chiamiamo in causa Gasparri. Allora, sta per succedere che in questo momento chiediamo in diretta, cari amici che siete anche presenti in aula. Stiamo facendo un atto. Ciao Italu. Stiamo facendo un atto di cui sentirete forse parlare sui giornali, perché di questo parlano ultimamente. Stiamo per scrivere a Gasparri e ci aspettiamo una risposta su Twitter. Stiamo per scrivere davvero a Gasparri, Gasparri o culo ti puzza. No, non siamo noi che dobbiamo offendere Gasparri. Allora, ecco, scriviamo la campagna a Gasparri. È fatti offendere da Gasparri. Ci ha già pensato la natura. Come, scusi signora fatti Pina? Ci ha già pensato la natura a offendere chi l'aspetta di Cristiano. No, infatti no, cerchiamo. Ah, lo seguiamo già, Gasparri PDL, okay. Ma figurati se non lo seguivamo. Lo seguiamo già, Gasparri PDL. Allora, agli amici che ci stanno ascoltando, cosa volete che diciamo a Gasparri? Aspettiamo, insomma, noi vi lanciamo questa. Cosa volete che diciamo a Gasparri? Come farci insultare a Gasparri? Potremmo dire qualcosa di sinistra. Potremmo dire qualcosa di sinistra o potremmo dirgli che lui dice cose di sinistra. Intanto sto followando Civati e anche Fabio De Luigi. Cosa? Scusi, aspetta, passante, ci vuole ma fare io rispondo, questo suggerimento lo vogliamo dare se no i nostri ascoltatori non sanno che lei ha suggerito comunque cose. Io in difesa di Gasparri volevo dire una cosa. Poverino non ci è nato così, c'è deve andato perché? Dopo che l'hanno messo con la testa nel cesso quando andava a scuola. Non mandate i figli a scuola, potrebbero diventare dei Gasparri. Ma scusa, perché a Gasparri non gli twittiamo i messaggi che dicono i suoi compagni di partito? Ma perché a Gasparri non gli twittiamo i messaggi che scrive Gasparri? Sai che pure, trip. Pure, sai vediamo che risponde. Voglio Gasparri come foto di copertina su Twitter, c'è una cosa veramente sconcertante. Cioè, Madonna. No way. Oddio. Cioè è una foto con un barcone di poveri cristi che sbarcano sulle nostre coste con scritto no way, you will not make an Australia home. No, quella non è zona le nostre coste, sono le coste australiane. Ho capito, ma praticamente sta gli australiani aspettate, perché qui abbiamo trovato un bello tweet di Maurizio Gasparri a cui rispondere. Allora, Callippo sì, gelato no. Allora no, aspettate, perché allora, ci sono due momenti importanti sulla pagina Twitter di Gasparri. Il primo a cui forse risponderemo è: giù le mani dalla polizia, punto e basta, non si sfiduciano le forze dell'ordine, forza Italia. E soprattutto Gasparri, che io devo dire che ha una vita social veramente entusiasmante, e ritwitta Alfonso Signorini che ha scritto: Calippo sì, gelato no, due pesi e due misure. Ora, voglio dire, a parte che adesso followeremo anche Alfonso Signorini, perché se ha di queste chicche credo che non potremo perderlo. A cosa rispondiamo? A Gasparri, giù le mani dalla polizia? Con più non saprei, cioè veramente in mezzo della no, noi dobbiamo fare una cosa che tipo dobbiamo stare in un dialogo con lui. Esatto, e allora dovremmo, possiamo pure twittargli: Gasparri PDL, noi vorremmo instaurare un dialogo con te. Che dite? Sì. Ah, Alfano no, proprio. No, prendiamo delle direzioni. Niente, Alfano dice che il filmato di Diego Bianco lo smentisce. Ma va bene, perché diciamo che è come, è una questione quantistica. Il filmato lo smentisce e non lo smentisce contemporaneamente, giusto? È il metafilmato. È capito, è una questione quantistica. Hanno provato a fare Alfano che è colto. Bravo. È quantistico. Allora, passato questa piccola considerazione, io direi davvero di non rispondere a Gasparri, ma di instaurare un dialogo con lui. Allora, il nostro tweet è: Gasparri, instauriamo un dialogo. Che dite? Assolutamente. Allora, Gasparri PDL, instauriamo un dialogo, punto interrogativo, hashtag amici. Che dite? Direi che è abbastanza diplomatico e circonciso. Noi andiamo in pace. E in questo modo noi stiamo per lanciare, stiamo facendo il primo esperimento in diretta di Gasparri ritwittami la ciolla. Che insomma, consente. Aspettiamo risposte di Gasparri. Se non ci risponde, gli diciamo che è TVB. Beh, sì. Nel frattempo che Gasparri ci risponda, mandiamo comunque un pezzo. Pezzaccio che parla proprio del dialogo che vogliamo instaurare con Gasparri. Mandiamolo questo pezzaccio. Pezzaccio. Poi se ci risponde io mi piscio proprio potente. Quindi praticamente io sono, cioè lavoro in questa grande agenzia che di PR praticamente, quindi l'importante è il ruolo che ha sulla persona. Mi parli di te, di tutte le cose magnifiche fatte in vacanza. Mi parli di te, mi parli di sogni incredibili, amore, speranza. E poi non so come sei già sui cartoni animati. Mi spieghi i tuoi piatti migliori, i tuoi ex più educati. Non riesco a dire quasi niente, parli ininterrottamente. Mi parli di te, le prime due ore però quasi un po' mi diverto. Mi parli di te, ma la quinta di fila, già spero mi salvi un infarto. Lo stiamo perdendo! Libera! Spero che a un certo punto tu possa finire gli argomenti, o che almeno tu faccia una pausa di pochi secondi, che tu prenda fiato aspetto, ma qualcuno ti ha mai detto che parlare con te piacevole, ma quanto un occhio nero. Parlare con te è come dare una craniata contro un muro. Parlare con te è come un tuffo impareggiabile in piscina. E non sai che l'ha svuotata il giorno prima. Corso di shiatsu, di yoga e cucina cinese. E mi parli di te. E poi fai riassunto di Twilight e citi ogni frase. Poi parte una solfa infinita tra segno ascendente. Io che cerco un buon punto, così poi mi lancio dal ponte. Sei proprio bella, sì, l'ammetto, e c'hai sto piccolo difetto. Parlare con te come birra calda in pieno agosto. Parlare con te e consumare in gesto. Parlare con te è come ketchup sopra una ferita aperta. Ho un bel biglietto per un live di Marco Carta. Parlare con te è come un calabrone vivo nella tasca. Parlare con te con un foglio, o come farsi massaggiare da un capo d'olio. Quando Dio distribuiva il dono della sintesi, la mia fidanzata è talmente brutta che ha fatto un incidente migliorata. Abbiamo avuto un momento sessuale erotico inaspettato. Sembrava tipo la fine no, di... No, mi stavo scatarrando. Ecco, signor amico. Ragazze, lo sapete che oggi torna un momento della nostra trasmissione che ci è mancato tantissimo dall'anno scorso. Lo sapete. Qual è questo momento? L'oroscopo. Non mi ricordo. L'oroscopo. Per dinci. Intanto io sto followando Alessandra Amoroso e Antonella Clerici come se non ci fosse un domani. Che bello. E c'è lo Kaki che ci fa. E c'è lo Kaki che ci follow. No, pure Francesco Facchinetti. E anche da. Emma Marrone, Emma Marrone. Tiziano Ferro. Emma Marrone. Tutto Marrone. Il peggio del tweet proprio a casa tua. Branda. Giorgio. Branda. Signora Miku. Signore, cacca, c'è lo gioco dei pacchi. Me lo devo guardare. Mi muovimo? Muovimo, certo. Qua a Berlino Est, dove mi sono trasferita quest'anno, col gioco dei pacchi si vincono tante cose. Ah sì, signor amico, cosa? Una mutanda firma rossa, perché noi la possiamo usare solo bianca. Però se la vince i pacchi, la rossa te la puoi mettere. Ma te la puoi mettere solo a Capodanno? Un pacco di cetrioli, che non sono cetrioli sott'olio, ma sono sotto aceto, per la prima volta qui da noi, nella nuova Unione Russa. Cosa puoi vincere più? Una Trabant, se ti va bene, poi te la danno dopo 10 anni. Ma a me piace il gioco dei pacchi, perché non c'è niente in televisione. Solo il gioco dei pacchi vi mandano. Quanti canali avete voi nel vostro... Nessuno. E dove lo vedete il gioco dei pacchi? Lo facciamo nel collettivo di condominio. Ah, ecco, che si è spiegato. Allora sì. Mi fa quasi tenere. Sì, mi dispiace, poveri. Signor Amiku, ma ci avete parlato questo oroscopo quest'anno? Io seguo sempre l'oroscopo. Guardo le stelle, visto che la sera non c'è un cazzo che fare. Mi vedo un pochino dove sono i pianeti. Allora dico, quello succederà, quello. E poi succede. Succede, quindi il suo oroscopo è, come si dice, è attendibile. Allora, ma iniziamo, signor Amiku. Cioè, abbiamo tipo una sigletta. Chiedetemi ma qui abbiamo ci è venuto a trovare Maria è venuta a trovare. Ah ragazzi, Maria. Allora ci sono due momenti, sì. Abbiamo al telefono la signora Micuzza e in studio Maria Pagano. Un applauso per Maria Pagano, bentornata da noi. A proposito di amici delle forze dell'ordine. Ciao Maria. Non applaudite forte che in P1 stanno studiando. A quest'ora stanno studiando in P1, Maria? Sì. Quelli che vogliono laurearsi in tempo studiano pure alle 10 di sera, no? Non come noi fuori corso, no? Qua nella DDR quelli che si vogliono laureare in tempo se laureano in tempo. Quelli che si vogliono laureare in ritardo se laureano in ritardo. Quelli che si laureano in tempo e c'hanno delle idee, poi li mandiamo in Russia, in Siberia. Quindi stai attenta, Maria, non avere idee. Maria, senti, ti presentiamo la nostra amica Micuzza. Ciao, io mi sono iscritta in un'università moderna, però. Quindi queste cose non ci sono qua. È online 2.0? Web, una web università? Come funziona? Non capisco. Pure le vecchie in P2 diventano violente, non ho capito. No, non dipende. Allora, prima di tutto, Maria, non puoi dare. Vedo che qua nella DDR non abbiamo lo shampoo, il rasta ce l'abbiamo tutto. Stai attento. Allora me ne vado. E le cassette, Maria, della frutta le spacchiamo perché le bruciamo quando va freddo. Ecco, Maria, come te ne vai? Non volevi letto l'oroscopo? Io per questo ero venuto, perché mi aveva detto che c'era una dolce vecchina che mi leggeva l'oroscopo. Però insomma, se vuoi te leggo pure la mano, poi dici che fa sopra una cassetta. Pure. Ma dimmi una cosa, Maria, te i dread ti piacciono nella faggina? Dove, signora Micuzza? Nella vagina. Nella vagina, ho sentito bene, purtroppo. Se ci metti un po' di vasellina le puoi mettere anche nel culetto. Stiamo toccando, no, Maria, Maria, cosa non ti preoccupare. Maria Pagano può fare un menage a four, che vuol dire a quattro, con un solo uomo che abbia almeno tre dead e un bene. Ecco, Maria, no, tranquilla, Maria, no, il terzo dread te lo zacchi nella orecchia. Ecco, Maria, no. Se tu sei un dread, c'è tanti dread, puoi fare un menage a tanti dread, a 1000 dread, te lo zacchi dove vuoi, anche nelle unghie dei piedi. Ecco. Vabbè, Maria, non... Goditela questa università, in tutti i sensi. Maria, non piangere però, Maria, non... signora Micuzza, lei non la può vedere perché... Se Dio ti voleva vergine, non ti faceva una vagina. Ecco, appunto. Signora Micuzza, Maria hashtag. Sta per piangere. Nuovo hashtag, se Dio... Scusa. Al microfono però, sì, signora, stiamo Micuzza modernizzando in maniera eccessiva la signora. Esatto. Se signora Dio ti voleva vergine, non ti faceva la vagina. Ecco, insomma, sì. Maria, non piangere. Se Dio non voleva che facevi bambini, non ti faceva la bocca. Signora Miku, c'è Maria che sta piangendo. Signora Micuzza, ce la sta traumatizzando. Questo è il suo modo di fare politica. Ma si rende conto? Sta piangendo. Si rende conto questa Miku, Maria Pagano? Questa senta a me un attimo. Già chi sei una poveraccia? Tu puoi già capito come è ridotta chi sei? Ma chi sa si inzacca il dread in tuo pelo del culo? Che tamarra, madonna. Signora Micuzza, calmiamoci. Stai attenta, fate il bedetto tutti i giorni. Se ti vengono i dread, ti attende nel culo. Il Tarzanello si chiama. Ma ce lo dico, ho unica al 20-20. ecco, insomma, abbiamo un'altra denuncia pronta da parte di Maria Pagano. Insomma. A proposito di Maria Pagano, hai scelto un bel gruppo per scrivere Unical 2020, forse nel 2020 te laurei. Io non ho capito, però. Vabbè, non attenzione, che anche io sono un professore, ti posso baciare. Ecco, chi se beve una cime. In che facoltà insegnate? Nella tua. E qual è la mia? Quella dove studi. Sta piangendo, ragazzi. Maria sta piangendo. Maria, non piangere. Io vivo, io laurea. Maria, se ti vuoi laureare, imbarati. Per l'oroscopo, mica. No, no, è sbagliato. Tu ti vuoi laureare, ti vuoi laureare a prescindere in qualsiasi cosa. Vai alla università Luins, che fai il master in giornalismo e comunicazione. Lavori per studio aperto e fai bei servizi. Vai, vai, vai con Gesù Cristo. Ecco, ecco Maria, strada. No, Maria, non piangere, ti prego. Poi ti fanno fare il corrispondente da Londra. Signore. Signora Micuzza, sta diventando un po', non lo so, noi qua, sta esagerando. Che... Ma sono una bimba, signora Micuzza. Voi in Italia sbagliate, cos'è questa democrazia? Qui da noi, in Berlino Est, chi è contro di noi lo mettiamo al muro e lo fuciliamo. Ma infatti nessuno sta parlando di democrazia. Abbiamo un problema. Così. Dobbiamo trovare dei fondi per ristrutturare il muro di Berlino. Perché? Che succede? Siccome ne fuciliamo troppi in un anno, i proiettili stanno perforando, fra poco si buca. Dobbiamo trovare i fondi. Certo. Se non andiamo a fondo. Ora, ecco, Maria era venuta qui per sentire l'oroscopo, signora Micuzza. Sì, che poi sarebbe la nostra rubrica. Maria, di che segno sei? Maria, di che segno sei? Indovino forse, ma non vorrei. Allora, io vi dico che sono, vi dico pure l'ascendente. Allora, sono del segno della Vergine. Sì? Ascendente acquario con la C e con la K. Perché Maria è... Allora Maria, ti dico una cosa, le stelle oggi mi dicono che siccome c'è sono tutti allineati i satelliti, non vedi un cazzo, se vedi solo la luna, non li vedi niente. Quindi questa cosa ci preannuncio che stai attento, perché se non ti laurei non trovi lavoro, ma se ti laurei non lo trovi lo stesso, perché tanto non ti laurei. Ma a parte questo, stai attento nel tuo lavoro, perché sei brava, ma non metti a frutto le tue doti. Vai a battere la strada che vedi che guadagni. Maria, ecco Maria. Ecco. Salute. Ma sì. Leggero stato ansioso depressivo dovuto alla mancanza di lavoro, quindi vai a battere la strada che ti migliora in tutto. Ecco. Maria, non ti preoccupare, perché amore, come dice Paolo Fox, l'oroscopo bisogna verificarlo, quindi non ti preoccupare. Amore. Ah, c'è pure la partiamo. Amore, Maria, tu hai un ragazzo, qualcuno che no, ti piace? Sì, ce l'ha un ragazzo che l'ho vista io. Ce l'ha. Ah, tu ce un ragazzo, Maria. Amore, tranquilla, che le corna sono come i denti. Fanno male appena spondono, poi ti ci abitui. Bene, Maria, insomma, diciamo che è un futuro roseo che ti si prospetta, dai. E il vostro partner si scoprirà omosessuale, che se lo fa ingulare da un dread. Da un dread. Ma la signora Micuzza è laureata? Sì. Sì, all'università di Dresda. La Dresden University. Qui da noi, no? Mica possiamo dire le cose. Non è che ci possiamo nascondere dietro un profilo falso. Qua se c'è qualcosa da dire, glielo dici. Poi se ti pigliano a cazzotti, ti mettono al muro, ti sparano, ti fotti. Così bisogna fare. Chi ha inventato Facebook è una minchia. Ecco. Chi ha inventato Facebook non aveva le palle di dire le cose. Grazie, dopo questa disquisizione. Andare, me ne posso andare, sì. Maria. No, non me ne puoi andare, Maria. Corri via piangendo. Maria, è tardi. Maria Pagano, Maria, attenzione che è tardi. Sul ponte potresti trovare dei malintenzionati. Attenzione che di solito malintenzionati sono vestiti per bene, si fanno anche la barba. Io dire... ma io una domanda ce l'ho per Maria Pagano. Ma tu che ci facevi una sera di notte, quando solo all'unico che hai visto quelli che hai detto tu che studiava in B1. Uno da sola che ha avuto paura. Che sola, no, che era con 4.000. C'era mio cugino Robertino. Ma lo sai che fanno i cugini? Scopano. Volevo lasciarlo sottinteso, signora amico. Non è vero, non dovete infamare la mia famiglia, me ne vado. Informale. Ciao. Ciao, ciao Maria, ciao. Bene, adesso che Maria se n'è andata dalle palle, possiamo un pezzone, un altro, un altro. Maria, l'ultima cosa ti voglio dire, se ti rubano il ragazzo, la migliore vendetta è lasciarglielo prendere. Ci vuole fare un altro segno, signora. Secondo me diciamo che sì, ci è bastato. E intanto volevo lanciare gli hashtag che ci scrive il nostro amico Ciccio Marino. Il primo hashtag è Tsumikuza incassa all'Eurospin. Tsumikuza incassa all'Eurospin. L'Eurospin. Che è seguito dagli altri due hashtag, questi seri, perché penso che Ciccio Marino volesse inviarli a qualcuno in particolare: Eurospin Italia e Eurospin Italia SPA. Ecco, più chiaro di così. Diciamo che all'Eurospin. Na na na na na na na na na. Ai Ciotari. Ciotari. Ok, grazie. Dopo grazie signora Micuzza per questo suo intervento canoro. Esatto. Posso andare a vedere il gioco dei pacchi? Vada, vada, prego, prego, prego. Grazie mille per insomma il tempo che ci ha dedicato, come sempre. Sì, ma così. Signori, tu mi prendi per il culo. Perché te non ti spiega? No, io. No, sei tu proprio tu. No, sono una persona sei seria. Proprio tu, tu proprio una tu. Persona seria. Proprio tu, proprio tu, proprio tu. Dici che l'altra sera ti ha mangiato la pastacchina andati è già mia. Io non credo sia stata la signora Pina. Signora Micuzza, chi è stata la signora Pina? Si sta affogando la signora Pina. Ecco. Ti chiude a mangiare a casa sua, ma hanno detto, vedica. Sì, Ma hanno detto. Degli spiei. Allora, perché intanto la signora Pina mi invita e voi no? Felice, ma se telefonata la paga TV la pago io. Eh? Se telefonata la paga TV la pago io. Ah, pagate voi, signora. Tu, tu, tu, tu, tu. Grazie alla signora Micuzza, un saluto. E insomma, adesso di cosa dobbiamo parlare? Mandiamo un pezzone. Mandiamo poi... un pezzone? Sì, mandiamo un pezzone. Va. Mandiamo un pezzo. Che pezzone è? Monumento. Hanno fatto un... Basta, è tiepido. Monumento al grasso. Monumento al grasso. Andiamo a ascoltare. Ai Ciotari. Hanno fatto un monumento al grasso. Lo hanno fatto con il lardo spesso che avvolge e protegge il cervello delle pecore. Sì, delle pecore. Torniamo, iamo. Sì, torniamo per i saluti. Sì che qua dobbiamo sfumare. Sì, dobbiamo sfumare. Insomma, vogliamo lanciare sfuma di meno, Andrea. lanciamo l'hashtag sfuma di meno. Sfuma di meno. Dobbiamo fare dei saluti, dobbiamo lasciare, lanciare un hashtag e poi dobbiamo ricordare degli appuntamenti nella prossima settimana. Ah, tanti appuntamenti importanti, importanti e interessanti. Cosa facciamo per prima? Lanciamo l'hashtag. Lanciamo l'hashtag, prima lanciamo l'hashtag. Beh, prima lanciamo che l'hashtag poi dà un minimo di sostegno. Okay. Come dire? Suspense. Ok, yes. Sì, sì, allora sì. Okay. Di che parliamo? Vai, Fla. Lancia i lancia gli appuntamenti. Gli appuntamenti. Bene, ragazzi, siccome si è detto che ieri è stato il compleanno dell'aula, per da ieri in realtà. Ci sono diverse cose che dovete sapere. Per esempio che da ieri è stata allestita bravissima, in aula una fantastica mostra fotografica che insomma vi mostra appunto la storia dall'occupazione di questa fantastica aula. Le foto fatte da alcuni dei momenti salienti della lotta e dell'occupazione dell'aula più occupata appunto. Comunicazione di servizio. Dica. Un gimbicati giobbene da dare. Esatto. Amici nostri, per favore, evitate di metterci di sopra i giubbini, perché quella, sì, quella è una mostra. Di chi è la felpanera appesa? La felpanera appesa, signora Miku. Ma signora Miku, ma non avete messo giù voi intanto? Ah, scusa. Allora, detto ciò, la mostra fotografica. Di chi è la felpanera, voglio sapere? Gesù, dice che è di Gesù. Di chi è la verità? Di Gesù. Prima era imbeccata davanti ai fuochi. Risposta da io. Bravo. Allora, dice, di noi, chi piglia la felpa blooming? Dati un calcio, per favore. Basta, per favore la sfumiamo. Sì. La mostra fotografica aula è permanente. Cioè, permane. Permane da ieri, dal 4 novembre in poi, a data da definirsi. E i giubbini da attaccare. Monaggio l'hashtag. I giubbini a dimindi. I giubbini. Ci suggeriscono che la mostra in aula è permanente come la caduta dei capelli. No. Hai problemi di capelli? La permanente è come quella per i capelli. Capelli. Io ho la signora Pina e le orecchie. Capelli sono andati via e non torneranno mai. Un saluto ad Elio. Insomma, l'undici cosa c'è? Hai problemi di capelli? Allora, rivoltici a Giulio Cesare Sender. Ecco. Allora, tornando agli appuntamenti che insomma festeggiano, in cui festeggeremo insieme a voi questo anniversario bello dell'aula più occupata. Bello. Dalla prossima settimana segnatevi una serie di date, perché non potete assolutamente mancare, giusto Mari? Se mancate siete delle merde. Delle minche. Delle ciolle. A cominciare da martedì prossimo, 11 novembre. Maria Panino farà pagani. Maria Pagano farà i panini. Maria Pagano farà i panini, ma soprattutto alle 14 la distribuzione dei prodotti del Gas Unical, che in genere si tiene dove, Marina? In genere si tiene in Piazza Vermicelli. Ma come Gas Unical? Ma non si chiamava laboratorio ortofrutticolo P2 occupato? No, si chiama Gas Unical. I nomi li teniamo. Gruppo d'acquisto solidale. In genere tutti i martedì potete, insomma, la distribuzione è dalle 13 alle 14, invece in via del e dalle 15 alle 16 si possono scasciare le cassette che rimangono. Olè! Invece in occasione dell'11 novembre qui in aula la distribuzione sarà fatta qui davanti all'aula e in sarà dalle 14, dalle 14 fino diciamo alle 13 le 15 e mezza e poi alle 16 a seguire ci sarà un workshop. Sull'autoproduzione del sapore. Quindi amici puzzoni, io ne ho almeno un paio. Amici puzzoni, qui qualcuno ce li ha condivisi con me. L'autoproduzione non significa che vi pigliate il sudore e lo fate diventare sapone. No. L'autoproduzione vuol dire che c'è qualcuno che viene a spiegarci come autoprodurci il sapone. Il sapone in casa con ingredienti a casa naturali vostra. Ingredienti totalmente naturali. Così sapete che cosa vi schiaffate addosso quando vi lavate. Con Iris e Francesco. Poi alle 22 dopo alle 22 invece sarà proiettato un film a sorpresa. Se volete insomma passare la serata insieme a noi vedendo questo film a sorpresa in questo cinema autogestito, ovviamente sempre a tema con il compleanno, della rapida occupata, venite a dividere con noi questa serata di ciotia. Ma non finisce qui amici ascoltatori, perché il 12 novembre i festeggiamenti continuano. Il giorno seguente alle ore 14 avremo l'inizio di una una giornata informatica a cura del Ciotoflow, il gruppo degli informatici Cioti, Pazzi, alias anche tanta altra roba, che è di stanza qui al, in P2, e che cosa faranno, boh? Cose cazzute con i loro computerini, a sorpresa, robe fighe, e ci stanno suggerendo che saranno robe molto pugnette fighe, pugnette mentali e quant'altro. Comunque sarà una giornata informatica a cura del Ciotoflow. Alle 22 invece torniamo con le trasmissioni di Fuori Onda Radio in diretta. Se volete venire a fare il pubblico, il pubblico a mercoledì, quindi non faccio a tal proposito Ciotti delle Lettere zumba su Mirko. Ciotti delle Lettere, sì, questo mercoledì prossimo Ciotti delle Lettere diventa qualcosa di più grande, più bello, più bello. Sì, diventa una ciotia una clandestina ciota, una ciotia clandestina, sì, una ciotia clandestina. La ciotia sarà fusa con i clandestini e con chi vorrà partecipare, i nostri amici di clandestino CID. Sì. E con chi vorrà partecipare nella mega trasmissione super iper dai programmi in palinsesto. Qui lanciamo anche io lancerei l'iniziativa, fai con noi il tuo programma. Venite, a proposito, hashtag fai con noi il tuo programma. Vi siete dimenticati di dire la cosa importante, cioè? Se sul sito, sul profilo di Ciotia dell'Etero, di Clandestino Cito, di Gas Unical o di Ciotoflow, potete partecipare all'evento. Se indovini il film, vinci una cassetta da spancare in testa a un rasta. Esatto. Io voto per buon compleanno Mr. Grape. Okay, perché okay. Tema compleanno, giustamente. Esatto. E infine, succede il 13 novembre, giovedì prossimo, alle ore 12 ci sarà un... Alle 18. Scusa, perché ho detto 12? Non lo so. Alle ore 18, quindi alle 6 del pomeriggio, ci sarà un interessantissimo dibattito a tema spazi sociali. Si parlerà, insomma, di una serie di temi interessanti che ci riguardano da vicino, giusto Andrea? Sì, temissimi. Temissimi. Venite, e il dibattito sociali. Si fa insieme a voi, quindi venite, partecipate, siateci. E invece alle 21 a seguire c'è un fantastico rinfresco sociale con Jam Session. Jam Session. Ma non mangiate troppo. E per tutti quanti, ricordo, portatevi lo strumento. Qualsiasi strumento a casa vogliate, portatevelo da casa, portatevi ragazzi. L'importante è saperlo usare. Ma non mangiate troppo al rinfresco sociale, perché poi il 14 è solo un rinfresco. Venite mangiate. Perché poi il 14 c'è l'assemblea in Aula Magna, e quindi voglio dire, mangiamo. Voglio dire, dove c'è Crisci c'è cibo. E io che cazzo mi mangio? Ma che cazzo mi... Questa è una bella festa, dobbiamo fare più feste in questa università. Adesso basta, mangia! Ringraziamo l'ospitata del nostro rettore Miro Keglisci, che è appena intervenuto. Addio, Peppe. Ecco. Peppe. Ringraziamo il rettore magnifico. Passiamo all'hashtag. All'hashtag, lanciamo l'hashtag. Che hashtag vogliamo lanciare? L'hashtag è, diciamo che questo si ingloba nella nostra nuova rubrica Ciotie per il sociale. Sì. E noi dobbiamo fare una denuncia gravissima di questo, diciamo, piaga che ci opprime, ovvero le ragazze con le Hogan. Ecco. E quindi noi mandiamo l'hashtag denuncia le Hogan. È un hashtag comunque che sta girando, è una denuncia sociale forte. E noi, insomma, denunciamo le Hogan. Ragazzi, denunciate tutti quanti le Hogan, perché questo fatto non può continuare a perpetuarsi in questo modo. Assolutamente. Vogliamo neanche i Moncler sono... Vogliamo lanciare questa campagna di sensibilizzazione contro le Hogan, perché basta soprusi, basta... Per i nostri poveri piedi e per i nostri poveri occhi che sono costretti e rimandata a lezione. Meno Hogan, più foot job. Ecco. Perché era puttana. Bene, una mia amica che aveva le Hogan, e io le ho chiesto spiegazioni in merito, non riuscivo a capire, e lei mi ha risposto: ma sono comode. E allora non ci ho visto più. E che hai fatto? Sono fuggita piangendo come Maria Pagano. E con questo momento le Hogan. In questo momento di commozione per Andrea, che è purtroppo basta. Salutiamo tutti. Ciao amici. Ringraziamo per averci ascoltato. Se amici, ci avete ascoltati di amici nuovo per un'altra fantastica avventura insieme, un mercoledì di fuoco con le Ciotie dell'Etere, un nuovo passante che sta per dirci qualcosa, prego. Una domanda. Dica. Ma è questo il tuo modo di salutare alla radio? Che sono citazione. Se vi fate correggere, conservate lo sperma. Potrebbe essere per il seminario di autoproduzione della colla. Dio. Ecco. Sì, ringraziamo la signora Micuzza e chi ne fa le feci. Soprattutto il povero ingegnere, povero operaio, salutiamo scaricato. L'operaio scaricato da una camionetta scaricato della polizia. Esatto. Salutiamo i nostri amici in aula. Salutiamo lo striscione che presto sventolerà di nuovo. Salutiamo la signora Pina. Salutiamo la signora Pina, la signora Micuzza. Le ringraziamo per essere intervenuta di nuovo insieme a noi in questa fantastica puntata di Ciottiere alla Lettera questo mercoledì. Salutiamo Antoniella. Salutiamo Antoniella. Ciao Antoniella. Gli amici tutti, il Tripepi, gli amici siciliani, Sciari, Michele, Ciccio, Valterino, tutti quelli che sono intervenuti a fare questa puntata ancora più bella. E vi aspettiamo in aula P2 occupata tutta questa settimana, ma soprattutto la prossima, il 12. L'11, 12 e 13 per fantastiche avventure insieme. E poi se vi piace state qua tutto l'anno insieme a noi. Ciao ciao. Salute. Ciao. Ti sei innamorato di lei, quest'estate a Cefalonia, la spiaggia di Mirto sei il luogo ideale per fare un po' gli strani e i fricchettoni. Ah ah. Lucia era piuttosto carina, non un fuscello forse, ma due occhi verdi pazzeschi e un sorriso che riesce a sfidare la luce del sole. Ah ah. Di questa fanciulla in vacanza ti colpi anche il modo di fare diretto, ma non certo sfacciato, e dote di lusso, una simpatia importante. Poi senza dubbio il suo look sobrio ma così eccitante, a darti una mano nel perder la voglia di fare la guardia a un cuore propenso al peggio. Si è fatto largo l'autunno e una sera vedi arrivare ridendo, guardi sui piedi all'istante, nelle vene sangue ti si sta ghiacciando. Alzi molto la voce, le dici queste parole, portami piuttosto al ristorante vegan, ma togliti quelle organ. Na na na na, so come convincerti, dammi il tuo IBAN, ma levati quelle organ. Na na na na. Certamente da te giudicare le persone da quello che indossano e men che meno trattarle di merda se non ami i loro gusti. C'è quindi profondo imbarazzo e disagio estremo nell'ultimatum che le dai, per quanto sia chiaro ad entrambi che lì non c'è via di uscita. La tua sfuriata ha sortito l'effetto voluto, ma a fine novembre la vedi in centro con una sua amica e ritornano tutte le ombre. Non contenta la stronza, addosso ne ha un nuovo paio, portami piuttosto ad una pericena, ma togliti quelle organ. Na na na na, so come convincerti, dammi il tuo IBAN, ma levati quelle organ.